presenta... Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ma sono mollo? Quale mollo? Ci mancherebbe, se sei mollo non fai questa attività qua. Ricordatevelo, questa è la più dura al mondo. Partito Democratico sta svolgendo il proprio congresso. In migliaia di circoli del Partito Democratico si svolgono discussioni, si vota e poi si misura chi abbia raggiunto maggior consenso. Invece nel movimento del padre padrone Grillo, chi non è d'accordo con lui viene cacciato. Siccome il sistema nostro è molto aperto, abbiamo il dovere di proteggerlo dagli approfittatori, perché altrimenti Grillo, diventiamo, diciamo, il Bengodi e finiamo per deludere gli elettori. Get you off my mind. Questa non si chiama democrazia per il Movimento 5 Stelle, si chiama dittatura. Lo protegge Grillo? Avete un santo protettore? No, si chiama garante. Ma ci pensate, che vergogna, il partito che viene da Berlinguer, che abolisce l'articolo 18, che ha massacrato lo Stato sociale, l'acqua pubblica, la sanità pubblica, vanno a braccetto con il capitalismo finanziario che è il nemico pubblico numero uno, però lo fanno tirando fuori il pugno chiuso, andando alle feste dell'unità o chiamandosi compagni reciprocamente. Devono andare a fanculo questi ipocriti. Di Battista rispolvera il caro vecchio vaffa del Movimento 5 Stelle. Signori, tanto ormai si è capito, oggi secondo il retroscena della politica anche Renzi dice ormai è chiaro, o noi o loro, o loro o noi. Questo è il futuro dell'Italia, o noi o loro. Ovviamente noi è il PD per Renzi e loro sono quelli del Movimento 5 Stelle. I sondaggi dicono questo, ma insomma questa è fantapolitica, Voi state tranquilli nelle vostre mattinate in cui avete a che fare a pensare ad altre cose, il lavoro, se ce l'avete, se non ce l'avete, i figli da portare a scuola. Mi fa venire un po' l'urticaria. Sta discussione, caro Presidente De Luca, effettivamente è così. Nella nostra conduzione 4.0 che farà Vincenzo De Luca presto... Gallo Cendrone. A chi? Oh. A chi? A Di Battista, questo è. Gallo Cendrone. Chierichetto. Chierichetto. Chierichetto, anch'io ho fatto il chierichetto. Ah, era Di Maio, però, secondo De Luca. Vabbè, ma lo possiamo mettere su tutti. Allora, Moscio. Moscio chi? Fico. Fico. Ne ha uno per tutti. Per tutti. Del 5 Stelle. Va bene. Allora. Abbiamo il nostro direttore, il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno Luca. Buongiorno. Beh, qui andava bene Pinguino, qui lo dico io, Pinguino, non l'abbiamo messo, ma insomma. Insieme al direttore, caro direttore, io ti voglio presentare il mio scrittore preferito, il nostro scrittore preferito qui a 24 mattino, Mauro Corona. Buongiorno Corona. Buongiorno. Allora, che bello. Volevo, caro Corona, adesso tra l'altro dobbiamo parlare che è uscito un libro di Mauro Corona con un amico, Luigi Maieron, che io non ho ancora letto, ma lo leggo perché c'è una storia sotto che mi interessa, cioè la genesi di questo libro. Prima però volevo informare Mauro Corona che in questo momento a Grattacasolo ci sono 11 gradi. Gradi, mamma mia, ancora. Che Luca odia questo momento. A Salerno 12 gradi. Cioè, non è che lo odia, lo reputa il momento più inutile della storia di Radio 24. A Padova 9 gradi, Corona. Invece, dov'è lei? A Erto? No, sono a Roma. A Roma? Ma è sempre a Roma. Ma non è che non è che si candida, Corona? No, no, per carità. No, no, vabbè. No. Ci sa dire quanti gradi ci... No, a Fiumicino 7 gradi, la informa. No, però... Vabbè, insomma, niente, queste sono le temperature. Volevo fare questo. Non l'ho fatto arrabbiare. Dai, apriamo il Parlamento allora, perché parliamo di tante cose. Forza, forza, gente. Allora, intanto, ecco, Corona ha scritto questo libro con Maieron. Si intitola Quasi Niente. Ma è vero, vabbè. È interessante, in un'epoca in cui tutti si vogliono imporre, tutti vogliono vincere, tutti vogliono essere primi, tutti vogliono essere un po' anche, come dire, primeggiare sugli altri, con metodi anche un po' prevaricatori. E invece com'è che definisce le sconfitte, Mauro Corona, in questo libro? Com'è che... I fallimenti. Ma sono un più bel gesto, a volte... spesso non voluto, il più bel gesto di dolcezza, di fare gioire gli altri. Ah beh, certo, perché se uno perde c'è uno che vince. No, ma c'è uno che gode della sconfitta, della tua perdita, per cui siate falliti, fallite tutti, che renderete felice l'umanità. Ah, beh, è un modo, ma non è un modo per, come dire... Per allietare gli altri. Eh sì, però attraverso una sconfitta, attraverso un dolore. Se uno, sempre un dolore, la sconfitta è più che altro una batosta, una bastona. Se pensi a Renzi, quanta gente ha fatto star bene quando l'hanno sconfitto al referendum. Ecco. Quindi se vogliamo fare veramente del bene all'umanità, come dovrebbe essere il dovere di ognuno di noi, bisogna perdere, essere sconfitti, quindi... facciamo stare lieti e contenti gli altri. Oh, cioè Renzi dovrebbe... è bella questa lettura, direttore, no? Renzi dovrebbe godere, oh, con questa sconfitta ho reso felici milioni di italiani. Ecco. È indubbio, diciamo. Però non è che la politica funziona molto così, mi sembra, Luca. Non è un pensiero filosofico, la politica, certo. Non ha nulla di filosofia, è una becera accozzaglia. E quindi insomma parte da questa considerazione per vedere anche il fallimento, la sconfitta in un modo totalmente diverso, no? Filosoficamente parlando, cioè come la gioia per tutti coloro che godono di questa sconfitta. Vabbè, ma Corona, ma perché c'è qualche... è la vicenda del Campiello, no? che pensava ho di... Ho tirato in ballo quella vicenda che mi era personale, ma potrei aggiungerne di mie almeno 2 miliardi di queste vicende di sconfitte. Ragazzi, una vita di sconfitte, ma perché? Sì. Una vita di sconfitte, caro Lucadini, qua non si sa, insomma. Sicuramente si cresce attraverso le sconfitte. Sì. Vabbè, no, ma mi interesserà leggere questo Quasi Niente di Mauro Corona e Luigi Maieron, queste chiacchiere, no? tra amici. È un amico, no, Maieron? Molto. Quindi insomma un libro che nasce da questa chiacchierata. Va bene, dai, parliamo dell'attualità. Allora, Luca Dini, anche tu li vedi o noi o loro oggi sui giornali, dopo che ieri c'è stato un sondaggio che dà il 5 Stelle in testa, il PD dietro ma di poco, paga anche un po' la scissione. Pare che Renzi abbia chiarito che sarà così, o PD o Movimento 5 Stelle. Ma che sia o quello o l'altro è evidente da un pezzo. Poi devo dire, sai, sondaggi, le intenzioni di voto non sono voti. Sì, chiaro. L'abbiamo ormai imparato, quindi non darei troppo credito in generale o... ai sondaggi. Non sarei così sicuro che le cose andranno o andrebbero come si dice. Detto questo, o noi o loro, mi pare invece l'unica certezza. Sì. Sì, certo, anche se con questo sistema elettorale o noi o loro, cioè nessuno. Però Corona avevamo già cercato di inquadrarlo l'altra volta, no? Col PD è un po', è molto in crisi, perché Renzi certo non lo ama e non... E il 5 Stelle, visto che siamo o noi o loro, Corona, che si fa? È ovvio che lì c'è un capo che decide, c'è Grillo, quindi stanno in questo limbo, in questa democratura, come chiamava Predrag Matvejevic, no? Che è un ibrido tra democrazia e dittatura. E quindi io non credo che al di là dei sondaggi, che bisogna vedere alle urne dopo, però la gente era partita bene con i 5 Stelle, era partita adesso, quando cominci a comportarti in un certo modo, la gente si scotta e dice ma allora anche questi, e quindi possono benissimo cambiare in corso d'opera, non è detto che vincano loro. Non è detto che vincano, no. Io c'è da dire che il mio parere è che guadagnano tutte le volte che succedono vicende come quella di Minzolini, dai, diciamolo chiaramente, l'ultima, il salvataggio, che sinceramente anche oggi Bersani fa un'intervista e dice non ho veramente capito, cioè questa idea che il Senato si sia trasformato in un quarto grado di giudizio dopo una sentenza e abbia salvato Minzolini, cioè, nulla contro Minzolini, ma insomma se c'è una condanna, tra l'altro adesso è in una situazione in cui è in interdizione dai pubblici uffici, ma è senatore. Beh, questa corona è straordinaria, sì. No? Cioè... ma è questa l'Italia, eh? È questa l'Italia. E la gente che va a votare dovrebbe tenere conto di questo. Ma credo che un po' ne tenga conto, cioè il motivo. Infatti gliela faranno. Ma l'unica reazione che può avere la gente, al di là dei fedelissimi, che puoi anche stuprarli, bastonarli, che voteranno lì, perché è come tenere alla squadra del calcio. Al di là dei fedelissimi ci saranno, pagheranno, insomma, anche i 5 Stelle, o poi loro campano, bisognava salvarlo per questo, per quell'altro, insomma. E questa è l'Italia. È l'Italia. Che... è l'Italia dove uno che è stato condannato, che è ancora lì, e si tirano tutte queste fumose giravolte per tirarlo fuori. Uno... questo è stato condannato, un po' via, non deve neanche più esistere. Beh, adesso politicamente. Politicamente. No, Luca, io ero un po' impaurito, perché Corona è uno poi tranchant quando vuole. No, questa vicenda Minzolini, Luca Dini, tu lo so che guarda che torna oggi sui giornali, è stata un po' liquidata, ma in realtà sì, perché Minzolini non è, come dire, Berlusconi, Bersani, Renzi, non è uno dello stesso peso politico, ma tu hai un'idea di quello che è successo? Spero che non sia un patto, onestamente. Non mi è piaciuto, devo dire la verità, perché non puoi un giorno farti campione della difesa della legalità. Non voglio dire qui non è garantismo. Questo è un signore che, appunto, per il quale si è già deciso che cosa ha fatto, che cos'è. Quindi l'ho trovato un errore abbastanza marchiano. Poi non voglio giudicare le singole persone, per carità. Io sono uno di quelli che quando c'è una sentenza preferisce sempre che sia una soluzione, però lo ritengo un errore, soprattutto in questo momento è un favore fatto a chi campa di questo, ecco. Infatti, ma soprattutto sono queste le cose che portano probabilmente su il Movimento 5 Stelle quando succedono queste cose. Ma senta, Corona, ma in questo libro quasi niente anche, ma è vero che è legato anche al fatto che si può vivere con quasi niente? Sì, ma questo non è che noi esortiamo l'umanità a vivere con poco, abbiamo fatto un ragionamento e abbiamo detto cosa sono le cose che ci creano stress, che ci creano paura, angoscia, tensioni, sono i valori, cioè le cose in più, il superfluo. Allora, per esempio? Per esempio, non lo so, faccio un esempio banale, se lei ha un orologio, un Rolex da 60.000 euro, avrà paura che lo perda, che gli tagliano il polso, che glielo rubino, che prenda botte, deve difendere questo bene, si crea un'ansia. Ogni oggetto ha una sua funzione semplice, quindi io se mi serve guardare l'ora, mi basta un orologio da 10 euro, fatto salvo l'idea che tutti devono fare quello che vuole, oppure sul fatto del cibo, io faccio esperimenti, vado in giro 2 giorni per la montagna, senza nulla, solo acqua, e quando scendo in un paese non è che chieda scusi dov'è che si mangia bene, mangio bene dappertutto, perché vivere è come scolpire, bisogna togliere per vedere. Questa è la nostra filosofia, che abbiamo raccontato lì in maniera tranquilla, senza nostalgie, senza senza questa idea di decrescite felici, no, così proprio come uomini di paese, uomini di montagna. Beh, bello. Si può applicare anche in città, questo sì. Sì, magari è un po' più difficile, magari con... È difficile, sarà difficile il traffico, ma non è difficile vivere con poco. Ma io vedo i ragazzi che hanno l'iPhone nuovo di Zecca, l'anno dopo, una stagione dopo, viene fuori quello nuovo e sono disperato. È uguale all'altro. No, un po' meglio. Però siccome è uno dei problemi appunto in città è il traffico, visto che l'ha detto lei, andiamo a sentirlo e poi rientriamo con Mauro Corona e Luca Dini. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Vorrei essere l'orsacchiotto del pigiamino di Eva Enger. Il senatore Minzolini, ebbene sì, mi hanno salvato e sapete perché? Perché io so io e voi non siete anche... E Maria, sono anacleto, stamattina ti ho sentito un po' rauco, quando sei rauco, quando è il raffreddore, quando è la tosse, quando è la febbre. Ma che fai, dormi sul terrazzo, abbi pazienza. Ti saluto, ciao. Ormai siamo talmente subalterni al pensiero politicamente corretto che viene anche fuori che è giusto togliere al bambino la mamma per avere due papà, e che questo, su questo nessuno obietta. Io tolgo la madre perché la pago per fare un bambino, quello va bene, ma se tu dici quattro battute sulle rumene ti cacciano dalla televisione. Così sgarbi. Devo dare un messaggio ad Anacleto. Io ti voglio benissimo, Anacleto, no, non dormo sul terrazzo, chiudo anche le finestre per gli spifferi, però... Se ti attrezzi nel 2017 a mandarci messaggi via WhatsApp al 349-238-6666 in audio, guarda, la qualità e la pulizia della tua voce ne migliora del 70%, e noi, io ti adoro, Anacleto, ti manderei in onda tutti i giorni. Però dai, facciamo un piccolo sforzo, Anacleto, dai, un piccolo passo verso l'umanità nel 2017. Allora, siamo con Luca Dini e Mauro Corona. Oh, questa storia del... Adesso, Luca, partiamo da te, perché poi Mauro lo temo un po' su questa storia di Paola Perego e delle donne dell'Est, che lui già sulle donne ha detto basta. Ma adesso è giusto chiudere un programma, Luca, che dici? Sì, è stata una cosa clamorosa, cioè uno scivolone, una serie di luoghi comuni davvero ridicoli messi in un programma televisivo. Sono cose che non bisognerebbe sentire in TV. Detto questo, le sentiamo tantissimo altrove, dappertutto, nel servizio pubblico e non nel servizio pubblico. Posso fare un esempio un po' cattivo, però giorni fa su Repubblica.it Francesco Merlo ha postato un video, secondo me ributtante, di un sessismo spaventoso su Angelina Jolie. Lasciamo perdere il tema, che è più o meno importante quanto quello delle donne dell'Est, cioè non è importante. Però io ritengo che anche nascondersi dietro il paravento del servizio pubblico o non servizio pubblico, io ritengo, come dice qualcuno, che facciamo tutti servizio pubblico. Secondo me tutte le persone, e i giornalisti soprattutto, dovrebbero avere come missione quello di lasciare il mondo un pochino migliore di come l'hanno trovato. Per esempio, no, visto di persone pubbliche, il ministro delle finanze olandese Dijsselbloem, sapete cosa ha detto ieri? Ha detto questo: i paesi del sud Europa la smettano di spendere soldi in donne e alcol. Cioè, questa per dire gli stereotipi. E lui è un uomo delle istituzioni, non è come dire aggiungere sigarette, esatto, non è un autore televisivo, mancava esatto il mandolino, la pizza e ci siamo. Comunque, Corona, questa storia delle donne, ha saputo questa vicenda delle donne dell'Est? Ho saputo vagamente perché non ho visto la televisione, però insomma, adesso bastonare tutti sulla Perego, si poteva far capire in maniera migliore che c'era forse stata un'esagerazione, qualche errore, chiedere scusa e andare avanti. Se quel programma lì avesse fatto 30 milioni di audience, non lo chiudevano. Dice che poi la realtà è quella. Sì, se quel programma lì avesse fatto, non so, il 55% di share con tipo Sanremo, non lo chiudeva. Vabbè ragazzi, però c'è, io ce l'ho qua l'elenco, le donne dell'est sono sempre sexy, non mettono le tute e pigiamoni, perdonano il tradimento, sono recuperano il fisico marmoreo dopo il parto, c'è proprio una serie di luoghi comuni di un becerume totale. Ma è solo quello i luoghi comuni, solo il programma della Peregrine. No, certo. I luoghi comuni, questi qui non sono neanche gravi, ci sono luoghi comuni che coinvolgono la gente. La gente, il popolo italiano, luoghi comuni, mancanza di idee, risse tra di loro. Pare che la politica se la debba vedere tra di loro, non gliene frega niente del popolo, chi non ha lavoro, le tasse, le pensioni, non pare che non gliene freghi niente. Questi sono i luoghi comuni che mi fanno paura. Più dei luoghi comuni. Più delle donne dell'est. Delle donne. Donne dell'est, perché Corona ci ha detto che con le donne ha chiuso, basta, i suoi, fallimenti chiuso, anche ho lì. Ho chiuso l'innamoramento, a me quelle che mi hanno detto ti amo. Ha reso la vita un inferno. Lo so, questa quindi, ce l'ha già detto. Quindi faccio a modo mio in qualche. Non vogliamo sapere. Fa a modo suo. Non vogliamo. Luca, tu vuoi sapere dettagli? No, non vogliamo sapere. Ma magari sì. Magari sì. Dai, vogliamo sapere allora, Mauro Corona, cosa vuol dire faccio a modo mio? Vuol dire che nel mio caso, perché io parlo sempre di me, sì. Ho avuto storia, ci ho provato con la moglie 40 anni, mi ha reso la vita un inferno e mi diceva ti amo, ma smetti almeno dici, non so, sono insicura di, ma non dirmi ti amo, ti voglio bene, ho provato con altre, perché devo, magari mi sente mia moglie non me ne frega di meno, ed è la stessa cosa. Gelosie, rotture di palle, risse, casini. Allora, ma è questo l'amore? Ma ve lo regalo, signore. Ve lo regalo, ve lo ritorno indietro. Basta. Quindi, cioè, cos'è atarassia? Non lo so come si chiama. Allora, se dovessi conoscere o avere qualche altra donna, il che me lo auguro, dico signora o signorina, io sono ormai vecchiotto, non è che abbia più tanto da ballare. Dico, non diciamo nulla, proviamoci. Oh, senza parole vuote. Senza dire ti amo, c'è la luce, senza di te non so vivere, e poi mi hanno massacrato. Ma scherziamo. Caro Lucadini, è una seduta psicologica che io... Proviamoci, mi sembra... Proviamoci, è bellissimo, proviamoci. È una parola bellissima. Proviamoci, senza grande... senza mettersi in gioco con paroloni, mi piace. Corona, c'è qualcosa di lombrosiano che oggi vogliamo dire su qualcuno? No. Ma non mi viene in banca, no. Anche Minzolini si potrebbe... Minzolini! Che tra l'altro... ero con lui, non so in che sciagurato programma l'altro ieri, che tra l'altro dice, io i soldi li ho tornati, ma cosa c'entra? Io faccio una rapina, poi ritorno il malloppo e la rapina decade, rapina c'è stata. Effettivamente la saggezza di Mauro Corona c'è sempre. Allora vi ricordo che c'è Vanity Fair in edicola, c'è Paola Turci, anche lei, insomma, bella per me, infatti è il titolo di copertina con Paola Turci. Ringrazio Lucadini, ricordo se volete per Chiare Lettere, è uscito appunto Quasi Niente di Mauro Corona e Luigi Maieron, libro che io leggerò sicuramente, prima devo leggere quello di Robecchi, poi l'ho messo in coda, Robecchi e poi Corona, ce l'ho lì. Va bene, dai, vi ringrazio, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Anco Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali e che tanti schei 24 mattino. Signori, sono le 7:19 minuti. Ieri abbiamo assegnato gli ultimi due biglietti, o meglio, due copie di biglietti per Platone, la caverna dell'informazione. Domenica siamo a teatro, al Teatro Manzoni di Milano, dalle 19:45 c'è l'aperitivo, 20:45 lo spettacolo, ci si diverte, si ride molto e sapete quanto fa bene. E potete vederci e venire a comprare i biglietti a questo punto, andate su www.teatromanzoni.it e comprate il biglietto per Platone. E ecco, arrivano gli applausi, c'è anche il vincitore di ieri, Riccardo da noi, ieri abbiamo dato due biglietti. Riccardo da Milano, toga party, ma non party. Smettila, Peter. Non parti con la Y, toga parti, quelli che se ne vanno sono i magistrati che sono in distacco. E Ale, dai, facciamo che questa è la rassegna stampa di 24 mattino, come tutti i giorni, e allora andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Ancora, dalle parti di Padova fate Platone, ve lo chiedono tutti, da tutta Italia, ma non venite a Padova, non venite a Roma, non venite a Napoli, non venite a Firenze, insomma, al momento siamo a Milano, e se ci chiamano noi veniamo, non è che ci presentiamo a Padova, pronto? Siamo a Padova, a fare Platone, siamo qui, siamo a disposizione, come diceva quel tale dei 3-3. Allora, è mercoledì 22 marzo, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore, banche venete, proroga per le offerte ai soci, questo è il titolo di prima pagina. Poi ci sono quotidiani che aprono con la notizia con cui aprirò anch'io gli approfondimenti. Terrorismo, stretta sui voli, è l'apertura del Corriere della Sera. Repubblica, allarme per le bombe nei tablet, vietati sui voli per Stati Uniti e Londra. Poi Il Giornale, scatta il piano di guerra per difenderci dai Black Bloc. Sabato a Roma le manifestazioni che incutono un po' di timore al Ministero dell'Interno. Per La Stampa invece, migranti, intesa con Berlino, parla il Ministro dell'Interno Minniti, anche Austria e Svizzera hanno promesso un'apertura. Il Messaggero invece ha un messaggio di Gentiloni, Premier, da Roma la scossa all'Europa. Il Premier Gentiloni al Messaggero, i trattati, occasione per andare avanti con maggiore flessibilità. Per La Verità, immigrati usati come armi per impoverire gli italiani. I flussi migratori vengono utilizzati per costringere gli stati a sottomettersi al volere di chi li manovra. Mentre Il Fatto Quotidiano torna su Minzolini, Minzo interdetto e abusivo, Grasso lo faccia cacciare, cioè dal Senato. Libero invece, fermatela, Equitalia è impazzita, 5 milioni di lettere spedite. È caos, in molti casi gli avvisi sono sbagliati, le somme richieste non dovute. La rottamazione delle cartelle, se la prende così, Equitalia, Libero, vabbè. Tralascio, province, fuori strada, l'apertura del giorno è in corso, la 203esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Va bene, andiamo ad approfondire le notizie. Questa dei voli dai paesi arabi con il divieto di portare a bordo computer e tablet è una decisione di Stati Uniti e di Regno Unito, evidentemente per alcune segnalazioni di intelligence, ci mette un po' di ansia, no? Incute un po' di timore nel prendere voli. Che cosa sanno Stati Uniti e Gran Bretagna che noi non sappiamo? Perché i passeggeri che si imbarcheranno ad Amman in Giordania, Cairo, Egitto, Istanbul, Turchia, Jeddah e Riyadh in Arabia Saudita, Kuwait City, Casablanca in Marocco, Doha in Qatar, Dubai e Abu Dhabi potranno portare con sé solo dispositivi non più grandi di un telefono cellulare a bordo? Quindi niente laptop, niente console per videogiochi, lettori tipo il Kindle, niente di questo. Perché se vanno negli Stati Uniti a Londra? C'è qualche allarme? Vorremmo saperlo anche noi gentilmente, se per caso, se no si suscita un'ansia mica da poco. Ecco allora che leggiamo pagina 9 del Corriere della Sera, Guido Limpio. Gli americani allertati dopo il raid nello Yemen? Gli artificieri di Al-Qaeda e i portatili esplosivi. L'intelligence statunitense ha raccolto informazioni sull'uso di gadget per nascondere bombe? E questa è la domanda iniziale di Guido Limpio. Durante il raid a gennaio in un rifugio di Al-Qaeda in Yemen, gli americani hanno trovato indizi forse interessanti? Le autorità hanno escluso minacce specifiche, mentre fonti citate dai media parlano di intercettazioni dove militanti discutono di utilizzare computer. Di qui le misure restrittive. Nel dicembre 88 i terroristi hanno distrutto il Jumbo Panama Lockerbie celando l'esplosivo in una radio. Nel 95 una cellula qaedista, quella di Ramzi Youssef, aveva preparato micro ordigni per essere portati a bordo smontati. Ci sono, insomma, purtroppo casi. Lo schianto del metrojet russo nel Sinai nel 2015, rivendicato dall'ala egiziana dell'ISIS, anche se non ci sono le cause definitive. Nessun dubbio invece su quanto avvenuto a febbraio dell'anno scorso a Mogadiscio, quando un kamikaze ha fatto detonare una carica su un Airbus somalo poco dopo il decollo. E allora, che succede? I giornali cercano di spiegare intanto la decisione, non spiegano ovviamente, non vanno oltre nel dire che quello che sta succedendo, però certo un po' di inquietudine mette questo allarme. Oh, invece vorrei tornare in Italia, c'è questo dato che c'è su tutti i giornali, è fornito dall'Istat e c'è questo numero, 970.000 famiglie, lo trovate un po' snocciolato su tutti i giornali. Con la crisi cambia lo scenario del mercato del lavoro e 970.000 sono le famiglie mantenute da donne. Quindi quasi 1 milione di donne capo famiglia, questo è il titolo del giornale. Il Messaggero invece, le donne mantengono 970.000 famiglie. Anche il Corriere della Sera, le 970.000 famiglie italiane dove lavora solo la donna. Sono i nuovi dati dell'Istat sulla occupazione. 1 milione di famiglie invece, nuclei familiari, senza alcuna fonte di reddito. Questo in Italia è 2017, questo è un altro numero abbastanza inquietante, ma questo di 970.000 famiglie, come racconta Dario Di Vico, anzi no scusate, Alessandra Racchi, a pagina 10 del Corriere della Sera, sono famiglie in cui appunto lavorano solo le donne. E se prendiamo in considerazione il numero totale delle famiglie italiane, oltre 16 milioni e mezzo, possiamo capire quanta parte del peso della società finisca sulle spalle delle donne. Infatti è difficile immaginare che una donna che lavora fuori casa poi non si dia da fare in maniera attiva anche dentro casa, con l'accudimento di figli, la spesa, il bucato, i pasti, tutto il resto. Ecco, questa è la cifra dell'Italia che cambia, se volete. Cambia molto lo scenario del mercato e aumentano le situazioni dove è lei che porta a casa lo stipendio, in questo caso 970.000 famiglie. In tutto questo, beh, si distingue il signor ministro delle finanze olandese Jeroen Dijsselbloem, che presiede l'Eurogruppo dal 21 gennaio 2013. Un uomo delle istituzioni, visto che ieri tanto si è parlato degli stereotipi, no, che sono costati il posto a Paola Perego, il posto, insomma, la trasmissione chiusa sabato, gli stereotipi sulle donne dell'est. Beh, che facciamo allora col ministro delle finanze olandese Dijsselbloem, che a proposito di stereotipi in un'intervista alla FAS, cioè al Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha detto che i paesi del sud Europa, devono smetterla di spendere soldi in donne e alcol. Capito? Donne e alcol. Mancano la pizza e il mandolino, e poi la tarantella, i balli, e poi che cosa, signor Dijsselbloem? Cosa dobbiamo aggiungere come stereotipi? Noi spendiamo soldi in donne e alcol. Noi del sud, noi, italiani, spagnoli, greci. Eccolo lì. E non ha neanche chiesto scusa, Cioè proprio tranquillamente ha detto non torno sui miei passi, questo in un'intervista. E allora a lui è dedicato il caffè di Massimo Gramellini, oggi in prima pagina del Corriere della Sera. Questo è anche l'articolo, non l'ho detto, da Mani sul Volante, l'articolo che mi fa pizzare della giornata. I paesi del sud spendono in donne e alcol. Sentite Massimo Gramellini, che già lo definisce infatti il Perego d'Olanda. Dijsselbloem, presidente dell'Eurogruppo, ha dichiarato al più autorevole giornale tedesco che le nazioni del sud Europa non possono continuare a spendere soldi in donne e alcol e poi chiedere aiuto. Che a casa sua Dijsselbloem sia considerato un progressista getta un'ombra inquietante su cosa pensino di noi in Olanda i regressisti. Quest'uomo ha inanellato tanti di quegli stereotipi da far ammutolire un congresso internazionale di bar sport Per ragioni molto simili alla RAI hanno appena rimosso una conduttrice. Ma a differenza della Perego, lui, disse il Bomitesti, se li scrive da solo. Strano, si pensava che ad Amsterdam avessero una certa pratica di pub e bordelli e che spendessero qualche spicciolo anche dentro i coffee shop. Nelle classifiche sul tasso d'ubriachezza, l'Italia e le sue sorelle meridionali precedono di pochissimo l'Olanda, ma rimangono ampiamente dietro Germania, Ungheria e Danimarca, quanto ai piaceri del sesso ormai soppiantati dai brividi del calciomercato. Una breve indagine tra le donne latine porterebbe Dieselbaum a scoperte sconfortanti. Eppure a quelle latitudini continua a riscuotere un certo successo l'immagine del contribuente nordico che sgobba sotto cieli tristi per consentire a noi terroni di ballare il sirtaki in una damigiana di Bordeaux con Penelope Cruz e Monica Bellucci vestite completamente di nero. L'Europa è disfatta, restavano da disfare gli europei, ma si direbbe che siamo già piuttosto avanti col programma. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro, vai su aruba.it. Vai Alessandro Milan, il Dudu e il Dudina dell'informazione. Ma sono di più adesso, sono otto pare i cani di Berlusconi, Dudu, Dudina, Dudetta, Dudu, Dudorto, non lo so. Comunque va bene, dai, Dudu e Dudina mi accontento. Allora parliamo di politica. Ieri il Corriere della Sera aveva questo sondaggio di Nando Pagnoncelli che certifica in questo momento che il Movimento 5 Stelle, secondo gli umori degli italiani, sarebbe il più votato, al 32,3% davanti al Partito Democratico. Oggi il Corriere riprende un po', partendo da quel dato, a commentare la politica. Maria Teresa Meli firma il classico retroscena per capire gli umori in casa Renzi e l'ascesa di Grillo divide il PD. Renzi lancia la sfida. La sfida di Renzi è questa: o noi o loro. Continua a ripetere questo in questi giorni. Niente di male, ragazzi, dice Renzi ai suoi. Quello che perdiamo lo prendono loro. Mi sembra normale, la conferma di quello che ho sempre detto, cioè che l'unica alternativa a Grillo è il Partito Democratico. Questa è la visione di Renzi a pagina 2 del Corriere. In tutto c'è un'interessante lettura invece di Francesco Verderami a pagina 3 su quelli che sono i movimenti di Bersani attorno al 5 Stelle. Bersani fuoriuscito dal Partito Democratico. Bersani e i 5 Stelle sono la forza di centro dei tempi moderni. E poi aggiunge, rifarei la famosa diretta web del 2013 quando ebbe l'incarico di Premier, poi la diretta web con i grillini che non portò a nulla e poi al governo che passò a Letta. Allora, qual è la frase di Bersani, interessante politicamente parlando per Francesco Verderami? Questa: i 5 Stelle tengono in stand-by il sistema, ma se alle prossime elezioni si indebolissero, arriverebbe una robaccia di destra. Ecco, considerare il Movimento 5 Stelle argine alla deriva di destra. Questa tra l'altro è una cosa che anche Beppe Grillo in passato ha detto, cioè bisognerebbe ringraziare il Movimento 5 Stelle che ha arginato fenomeni anche rischiosi, e adesso è certificata anche da Bersani, che dice sarà pure solipsista il movimento, ma va tenuto dentro il circuito democratico. D'altronde una forza che raccoglie al primo colpo il 25% non è un fenomeno transitorio, anzi loro sono il partito di centro dei tempi moderni. Anche perché i moderati non sono come si prova a rappresentarli oggi. E poi i moderati incazzati non sono una novità, visto che all'inizio del Novecento Camillo Prampolini si definiva un moderato rabbioso. Bersani, dunque, secondo Verderami, sarebbe pronto ad accogliere un eventuale invito per una riedizione in diretta streaming del 2013 se dopo le elezioni il 5 Stelle dovesse ottenere la maggioranza assoluta. Allora fu lui a ricercare un accordo programmatico per far partire il suo governo, e anche a parti rovesciate, cioè se vincesse il 5 Stelle, io ci sarei ancora. Quindi Bersani che lancia degli ami al Movimento 5 Stelle. Siamo qui, vediamo, e non li esclude in una situazione da appunto o noi o loro, come invece dice Renzi. Dall'altra parte invece Di Maio, Luigi Di Maio, rilascia un'intervista sempre al Corriere della Sera dopo questo sondaggio a pagina 5, dice: ma noi puntiamo al 40%, soglia per ottenere poi la maggioranza, vinceremo con il 40% grazie a un programma innovativo, assicura Luigi Di Maio. Ma nel caso si delineasse una situazione simile a quella dei dati attuali, invece, cioè 32%, cosa farete? Vi alleerete con altre forze? Non sono abituato a ragionare coi se e coi ma. Credo che le altre forze politiche non potranno sottrarsi dal condividere e votare alcuni punti come l'abolizione di Equitalia e dell'IRAP o il reddito di cittadinanza. Se lo faranno, volteranno le spalle ai cittadini, si assumeranno una grande responsabilità per il Paese. Ma non è un progetto utopistico il vostro? Bisogna essere convinti di ciò che si fa. Se si guardano i dati, il nostro trend positivo è impressionante. Vabbè, insomma, Di Maio dice questo. E alla domanda che rapporti ha con gli scissionisti del PD, quindi con questo amo lanciato da Bersani, dice Di Maio: come con quelli del PD. Non è cambiato nulla per me. Quindi sembra porre una pietra tombale su questo possibile ponte gettato da Bersani. Bersani, tra l'altro, rilascia anche un'intervista alla Stampa. Pierluigi Bersani, intervistato da Francesca Schianchi, a pagina 7, il titolo: è ora che Gentiloni si emancipi da Renzi e dica la verità agli italiani. Questo chiede Bersani, che Gentiloni dica la verità sull'economia. Poi insieme vedremo come fare. Mi disturberebbe di più sentire la descrizione di mondi che non ci sono. Ci vuole un discorso serio e rigoroso sullo stato del paese. Mi auguro che Gentiloni si emancipi da quella continuità. Quando sento Renzi dire di non aumentare l'IVA, ma gli ricordo che è lui che l'ha aumentata per il 2018. Ora bisogna intervenire perché l'aumento non scatti. Insomma, un Bersani che dice sulle nomine, tra l'altro c'è lo zampino di Matteo, non del Premier, vede un Gentiloni troppo, non dice questa parola, lo dico io per tradurre, asservito a Renzi e vorrebbe un Gentiloni più distaccato e più emancipato da Renzi. Oh, a proposito di politica, il Fatto Quotidiano continua con la vicenda Minzolini, con un appello a Grasso, presidente del Senato. Minzolini, definito Minzolini l'interdetto, nel senso che ha un'interdizione ai pubblici uffici, quindi a rigor di legge, non solo severino, l'ex direttorissimo del TG1 in questo momento non potrebbe occupare una carica pubblica. Il voto con cui il Senato ha sconfessato la Severino si è espresso sulla sua sopravvenuta incandidabilità dopo la sentenza di Cassazione, ma non sugli effetti della pena accessoria, che appunto è quella dell'interdizione dei pubblici uffici. E dunque, Tommaso Rodano, pagina 2 del Fatto, titolo principale del Fatto, è l'appello a Grasso, visto che la condanna ha determinato l'interdizione per 2 anni e mezzo ai pubblici uffici, ma fanno finta di niente, l'appello è: Grasso insomma, faccia decadere Minzolini, che è interdetto ai pubblici uffici ed è senatore della Repubblica Italiana. A proposito di politica, tra l'altro la Stampa racconta di un viaggio in carcere, un viaggio nel senso una visita in carcere fatta da Roberto Giachetti, lui che da ex radicale da anni visita le carceri italiane. Solo che nell'ultimo incontro, nell'ultima visita a Regina Coeli, Giachetti, ex candidato sindaco di Roma, si è trovato di fronte a Raffaele Marra, colui che è in carcere, ex vice capo di gabinetto del sindaco attuale, Virginia Raggi, del 5 Stelle a Roma, è in carcere. E allora c'è questa frase che è affidata alla Stampa: lo sfogo di Marra dal carcere, i grillini mi hanno tradito, altro che amici, si è visto che amici erano. Incompetenti, ripete Raffaele Marra davanti a Roberto Giachetti, proprio lui che era stato l'avversario di Virginia Raggi, che invece Marra chiamava la mia sindaca ben prima che venisse eletta. Per cui c'è questo intreccio curioso che viene raccontato sui giornali. Per la verità non sono bei giorni anche per Gianfranco Fini, ex presidente della Camera. Oggi Amedeo La Boccetta, ex parlamentare di AN, ex amico di Fini, bisogna dire ex perché adesso sono alle querele, querela minacciata da Fini e alla quale la Boccetta risponde controquerelerò. Beh, la Boccetta è colui che ha detto ai giudici Fini sapeva della casa Monte Carlo, anzi ne abbiamo parlato nel suo ufficio con i Tulliani. E allora oggi, intervistato da Paolo Bracalini sul Giornale a pagina 3, sono saltate le sue coperture, i giudici lo hanno inquadrato. A Medio la Boccetta è un fiume in piena contro Fini. Ma dunque Fini non sarebbe il famoso coglione, epiteto usato da lui stesso, verso se stesso, utilizzato a sua insaputa da Tulliani? Ma che coglione, risponde la Boccetta. Solo politicamente è stato un coglione, perché si è fatto illudere da Napolitano che facendo il killer di Berlusconi sarebbe diventato premier di un governo istituzionale. Ma sulla casa di Monte Carlo no, sapeva tutto. Così è la versione di La Boccetta, che all'annuncio di querela dice: che ci provi a querelarmi, controquerelerò subito per calunnia. Non voglio entrare in vicende personali, ma sicuramente la famiglia Tulliani ha molto condizionato le scelte di Fini. Racconto tra l'altro un aneddoto per far capire a che punto di boria era arrivato. Ci portò all'antica Pesa di Roma. Io, Corallo, Elisabetta e Giancarlo Tulliani, e disse: guardate, in questo ristorante mi hanno dedicato una bottiglia d'acqua personalizzata. E arrivò in effetti un cameriere con una bottiglia e l'etichetta dedicata al presidente della Camera. La imbottigliano per me, per un uomo importante come me, disse Fini. E rimasi sbigottito, racconta la Boccetta. Non riuscivo a capacitarmi di come Fini non capisse che era un'usanza per i clienti più in vista, nulla più. Quando gli dissi che ce n'era anche una dedicata ad Alemanno, sbiancò. È la Boccetta che parla di Fini e dice sulla casa di Monte Carlo sapeva. Vedremo. Un uomo che ha invece bottiglie di vino pregiato dedicate a lui in praticamente metà dei ristoranti di Milano. Il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno Alessandro. Beh sì, essendo io anche uomo del sud, poi spendo tutto in alcol. Sì, donne. E donne anche. Dillo, mancavano salutiamo le macchine tua sportive. Moglie. Salutiamo tua moglie. Mancavano le macchine sportive però. La frase non è mia ma è di un uomo del nord, George Best. Vabbè. Ah giusto, è vero. Che diceva gli altri soldi che avevano speso così li ho proprio sprecati. Allora, il Sole 24 Ore invece non sono soldi sprecati, perché oggi con il Sole 24 Ore, il Focus, 16 pagine, le agevolazioni per le famiglie. Non so se questo era contento di Sablen, però insomma segnaliamo gli sconti fiscali, gli sconti dei comuni, i vari bonus che sono a disposizione, e lo facciamo appunto con questo allegato al Sole 24 Ore. Ti voglio poi parlare dei voucher. Hai dei voucher nel cassetto? No. Ma guarda bene, lì c'è un disordine su quella scrivania, quando sono venuto a trovarti non si può vedere. Infatti, magari hai lì qualche voucher. Allora sappi che è stato chiarito. Quelli che sono ancora nel cassetto o quelli che tu in giro nella scrivania li devi usare, ma con le regole di prima, che sono state abrogate ma ci sono ancora. E se non capisci, leggi norme e tributi religiosamente, vedrai che tutto ti sarà più chiaro. Devi fare la comunicazione preventiva, questo, tutto il resto poi lo trovi su norme e tributi. Ti segnalo anche che oggi giornatina decisiva, incontro governo tassisti per scongiurare lo sciopero di domani, e vediamo come va a finire. Tra le molte altre cose che ti voglio dire, devi sempre leggere avidamente le pagine di finanza, sempre. Perché oggi ad esempio apprenderai che è il giorno di terminale, il giorno finale di chiusura dell'asta per i prestiti per sostenere l'economia, i prestiti da BCE alle banche. Si spera che le nostre banche prendano qualcosa come 50 miliardi, speriamo che poi arrivino. Magari anche a me, che così compro i biglietti per Platone che non me li hai voluti regalare e neanche mi hai fatto partecipare al concorso. Vabbè, questo è una cosa che io mi legherò al dito e ti scriverà il mio avvocato sul punto. Sempre. Ti segnalo poi, tra le molte altre cose, il piano europeo per stimolare l'occupazione nell'industria 4.0, insomma servono nuove competenze, detto in poche parole. Si spera di creare così 500.000 di posti di lavoro, lo speriamo tutti quanti. E poi la Brexit, il 29 marzo i britannici ci diranno che se ne vanno e noi europei rimaniamo. Noi europei rimaniamo, sì, rimaniamo anche noi del sud, anche se spendiamo un sacco di soldi, rimaniamo, e il 29 aprile risponderemo con le nostre condizioni. E quindi, traffico! Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presenta. Comila, oh, dammela a me sti due rini, Maremma, e ci devo andare a comprare la schiacciata dal panaio, andiamo! Andiamo, dai, va bene. Oh, se passi di qui è comodissimo, soprattutto economico. Passi di qui, prendi il biglietto, vieni a Milano, ti do i due urini, torni. Insomma, un bel investimento, caro amico. Allora, il Messaggero con Mario Aiello racconta, pagina 3, che per i romani saranno alcuni giorni un po' complicati, Si comincia con lo stop dei taxi domani, a meno che non ci sia in extremis oggi un accordo col governo, ma si tenta l'ultima mediazione, sembra un po' complicato. Poi c'è il timore dei black bloc, c'è il timore delle manifestazioni. Insomma, da domani i tre giorni di passione, ecco, questo è il titolo. Tra scioperi e black bloc, i romani pronti alla fuga. Altro che Roma città aperta, città vuota, gli sfollati della tre giorni del Calvario da domani con lo sciopero dei tassisti a sabato sera dopo sei cortei, i sit-in, le paure, le paralisi. Insomma, i romani scelgono la fuga, quelli che possono, non potendo sopportare l'esproprio. Tutte queste manifestazioni, sfoghi così che serpeggiano nei bar, nei luoghi pubblici, nelle conversazioni tra amici, all'uscita delle scuole. Insomma, Roma si prepara a vivere tre giorni anche di timori, Repubblica racconta i tassisti domani di nuovo in piazza. Oggi l'ultimo tentativo di mediazione di Del Rio. Saranno le regioni a stabilire le aree in cui possono lavorare i noleggiatori. Per loro previste anche sanzioni più severe, ma il fatidico mese è scaduto. Sono passati 30 giorni da quando ci fu l'incontro tra Del Rio e i tassisti, le promesse anche di una riforma del settore del trasporto, e questo pomeriggio alle 17 le sigle di categorie saranno al Ministero per sentire gli interventi che il governo intende mettere sul tavolo. La minaccia è quella dello sciopero proclamato da gran parte delle categorie per domani, dunque a rischio di una nuova paralisi della città e delle città, non solo Roma, che il Ministero proverà in extremis a disinnescare. Vedremo su Repubblica, sui giornali si racconta quali sono le posizioni sul tavolo, ma vedremo un po' oggi pomeriggio. Oh, a proposito di macchine, attenzione automobilisti, attenzione voi che usate il telefonino. Non è che dico voi, perché io, cioè, sono immune, tutti dobbiamo stare attenti a questa cosa. Dico voi perché adesso sono tranquillo in studio, anzi posso anche gigioneggiare col telefonino in mano. Voi no, che siete alla guida, è molto pericoloso e lo sapete. Ora se non lo avete capito che è pericoloso, e l'unico modo per farlo capire sono multe salate, arriva il super autovelox che multa chi telefona, controlla l'uso del cellulare, l'uso della cintura di sicurezza, altra questione fondamentale, e può filmare un'auto fino a 1,2 km di distanza. Quindi voi a 600 metri vedete, non vedete una pattuglia della polizia, usate tranquillamente il telefonino, poi quando la vedete nascondete il telefonino, bravi furbetti, ma loro vi hanno già pizzicato con questo nuovo strumento. Sembra un telelaser normale, uno di quelli che da anni sono utilizzati dalle forze di polizia, ma è un'evoluzione tecnologica da Grande Fratello, perché ha una telecamera incorporata che registra tutto quello che vede. Si chiama telelaser True Cam. E da qualche settimana lo sperimenta la polizia stradale nelle strade più pericolose del Lazio, come la Pontina. C'è l'ascoltatore che ci segue sempre dalla Pontina, come tanti. E anche in Sardegna, sulla statale 131 nel tratto oristanese. È una vera e propria mannaia per gli automobilisti indisciplinati al volante, perché non si limita a rilevare l'infrazione di velocità, ma la filma e poi l'archivia in un hard disk protetto e capiente. Contiene oltre 10.000 file e poi così possono verbalizzare tranquillamente la multa. Così, tra l'altro, i ricorsi al prefetto o al giudice di pace saranno sempre più complicati, perché il video è video e dimostra l'infrazione. Attenzione! Vi segnalo sul Manifesto, Adriana Pollice intervista nel giorno ieri dell'impegno, della memoria per le vittime di mafia e dell'impegno contro le mafie, intervista il presidente dell'ANAC Cantone, che però in questo caso parla di droghe, di proibizionismo, di liberalizzazioni, di legalizzazione. concetti diversi. Ebbene, sulle droghe il proibizionismo ha fallito, questo è il titolo. Ci nascondiamo dietro questa ipocrisia all'italiana, dice Cantone, sapendo che le norme sul proibizionismo servono a riempire le carceri di extracomunitari in gran parte e nessuno si preoccupa del perché il fenomeno cresce. E poi in questa intervista di Adriana Pollice, sempre a pagina 3 del Manifesto, Cantone si interroga, dice che un grosso utile venga dalla vendita di cannabis è indubbio per le mafie, ma non si può ragionare sulle ragioni della liberalizzazione guardando solo ai guadagni. Sarebbe una logica utilitaristica insopportabile. Mi spiego meglio, non si può giustificare un cambio di rotta unicamente prendendo in considerazione il tema del business delle mafie, perché sarebbe una sconfitta per lo Stato che ammetterebbe implicitamente di non essere in grado di arginare il fenomeno. Comunque, insomma, Cantone, presidente ANAC, si interroga se la legalizzazione possa essere una buona strada. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina dedicata a Gabbani, quello che ha fatto sta canzoncina idiota a Sanremo. Mamma mia, ragazzi. Gabbani che commenta tutte le parodie di Gabbani. Occidentalis mamma, incidentati in panda, haters in Italia, su Repubblica, e le commenta una per una. Questa è giusta, questa è bella. Le parodie aiutano il successo, mamma mia. Metti Bob Marley, dai, ti prego, questa idiozia cos'è?